Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana e nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre, Associazione Difesa Consumatori.it, ve lo ricordo sempre il sito, con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, oggi ritorniamo nuovamente su un argomento che in qualche modo già la settimana scorsa avevamo toccato insieme a Carlo Garofolini, quella del canone RAI. Insomma, siamo proprio nel periodo in cui normalmente partivano gli spot pubblicitari a go-go per ricordare a tutti che c'era una tassa da pagare. Bravissimo Francesco, infatti ricordi giustamente questo passaggio importante. Adesso possiamo stare tranquilli teoricamente almeno fino a luglio, quando invece arriverà da pagare una prima parte di bolletta di canone RAI, perché come sappiamo la prima bolletta comprensiva degli arretrati arriverà il primo luglio del 2016, con le novità che insomma stiamo imparando a conoscere in questo periodo tra tanta confusione. Quindi sarà una rata abbastanza pesante, attorno ai 70 euro. E dopodiché ecco, si andranno a pagare le altre rate. Dal 2017 invece il pagamento sarà suddiviso in 10 rate da 10 euro, perché praticamente il governo Renzi, comunque puntando su una grande lotta all'evasione, quest'anno diminuirà da 113,50 a 100 euro il canone. Comunque ecco, dal 2017 saremo più tranquilli, nel senso che pagheremo 10 euro al mese, ecco, per andare a coprire tutto il canone. Scusa Gianluca, prego. Questo significa che le bollette della corrente elettrica normalmente chi ha Enel per esempio la paga ogni due mesi, chi ha altre compagnie probabilmente forse sarà anche mensile. Quindi si andrà a pagare la prima bolletta, abbiamo detto, la paghiamo il primo luglio 2016 con 70 euro di arretrati, mentre dal 2017 la bolletta, il canone sarà più leggero, tra virgolette, perché verrà suddiviso nelle varie bollette, quindi avremo una media di 10 euro a bolletta per chi chiaramente riceve delle bollette ogni mese, mentre 20 euro a bolletta per chi riceve la bolletta bimestrale. In realtà, ma è più difficile dirlo che poi attuare questa cosa, che in realtà è molto semplice. Cioè la grande novità, è questo che deve capire il cittadino, la grande, forse anche unica vera grande novità inserita nella legge di stabilità per quanto riguarda il canone, è che da oggi in poi, dal 2016 in poi, il canone è legato a un'utenza di energia elettrica. Cioè il governo dice: tu hai un'utenza di energia elettrica, devi pagare il canone. Cioè si suppone la presenza di un televisore in casa nel momento in cui si paga una bolletta di energia elettrica. Ecco, io so Gianluca di alcuni genitori che si sono imposti, anche per come dire allontanare dalla virtualità in cui siamo sommersi i loro bambini, hanno deciso magari proprio di non volerlo il televisore. Certo. Allora, cosa succede? Succede che questo, infatti, noi siamo tempestati di telefonate proprio di persone che vogliono appunto dire alla RAI: guardate che io non pago l'abbonamento perché non ho il televisore. Ecco. E in realtà succedeva anche precedentemente, nel senso che per non pagare l'abbonamento, cioè per far sì che quindi non venga addebitato il costo dell'abbonamento sulla bolletta dell'energia elettrica, bisogna mandare una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate di Torino. Questo lo si faceva anche prima in realtà, quindi non è che poi cambi moltissimo da questo punto di vista, bisogna mandare un'autocertificazione. Cosa succede Francesco? In questo momento, infatti, tutti ci chiedono questo passaggio qua, in questo momento non è ancora stato definito come compilare questa autocertificazione. Le varie agenzie delle entrate dei vari territori lo definiranno entro febbraio, quindi noi a febbraio sapremo come dire all'agenzia delle entrate: guardate che io non ho un televisore, quindi non devo pagare un canone. Quindi diciamo ai cittadini: pazientate ancora un attimo prima di mandare un'autocertificazione, perché in realtà le modalità con cui inviarla devono essere ancora definite. Tanto la prima bolletta è a luglio, c'è ancora tempo, attendiamo febbraio che l'agenzia delle entrate dirà: ecco, per chiedere di non pagare l'abbonamento bisogna scrivere questo. Quindi chiediamo ai cittadini di pazientare un attimo da questo punto di vista, attendendo le indicazioni dell'agenzia. Sarebbe interessante vedere cosa succederebbe se tutti i cittadini mandassero una cosa del genere. Succederebbe probabilmente che inizierebbero dei controlli a raffica, probabilmente riuscirebbero a recuperare i soldi dell'abbonamento tramite le multe, perché sappiamo che ci sono delle belle multe nel momento in cui l'agenzia scopre, insomma, che si ha un televisore ma non si paga il canone. Vabbè, poi c'è il discorso di chi ha doppie utenze, lì insomma anche là bisogna approfondire quella cosa. Sì, il concetto è chiaro, la RAI non fa pagare due abbonamenti alla stessa persona. Questo lo faceva anche prima, per esempio, Francesco, anche questa è la domanda classica, la seconda casa. Anche prima i proprietari di seconda casa pagavano un abbonamento su uno. Certo. E non cambia nulla da questo punto di vista. È chiaro che ci sono tantissime particolarità che devono essere viste nel loro, appunto, nella loro specificità. Ed è per questo che noi, diciamo, come lo direbbero tutte le associazioni dei consumatori, per capire magari situazioni più specifiche, bisogna chiamare l'Agenzia delle Entrate di Torino, che ha un numero specifico a pagamento, lo sottolineiamo, a pagamento, e proprio riferito al canone. Per cui, chiamando questo numero, che è l'199-123-000, si parla con un operatore che sa tutto di canone. Ecco, quindi, questo diciamo anche ai cittadini. Avete delle domande proprio specifiche, delle particolarità, sentite l'Agenzia delle Entrate per avere una certezza di come muoversi. Certo. Per esempio mi viene in mente l'utenza del condominio, no? Esatto. Anche quella, lì secondo me gli amministratori dei condomini dovranno darsi da fare. Questa è stata un'altra casistica che ci si è presentata. Il problema è che effettivamente è ancora in via di interpretazione questa novità, ed è anche per quello che l'Agenzia delle Entrate aspetta il mese di febbraio poi per dire come scrivere la propria autocertificazione. Certo. Quindi è per quello che noi invitiamo appunto i cittadini, se hanno delle particolari esigenze, a pazientare per quanto riguarda l'autocertificazione e a chiamare direttamente l'Agenzia delle Entrate di Torino per capire appunto, ripeto, cose un po' più specifiche e che insomma che vanno al di là delle novità così come sono state inserite nella legge di stabilità. Va bene, grazie a Gianluca Codognato. Però prego, insomma, grazie. Con l'Adico magari tra un mese potremmo tornare a parlare assolutamente, è un argomento che scotta, potremmo dire. Va bene, grazie. Assolutamente. D'accordo, grazie Francesco, grazie a te. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.